No, celestino no, come ti posso dire, tipo grigio chiaro, dai, una cosa del genere. Sì, sì, sì, è come la foto, no, però ricordavo male, righine non ne ha. Righine intendevo, guarda, sì, la scritta a sinistra, no? Quella mette radio, in blu, e poi sotto mi pare la scritta canali, dalla foto sembra blu anche quella, il resto è verde acqua. Sì, è un bel apparatino. Poi ha avuto. Quando è uscito quell'apparato ha avuto un successo strepitoso, in tutto il mondo l'hanno, mi pare che c'è con quasi 20 nomi diversi, in tutto il mondo, Brasile, tutto, Russia, allora Russia ce l'hanno marcato Kenwood, lo sai? Stava parlando Emilio, vai un po' Marco. Aspetta, facciamo venire avanti Emilio, ma Emilio o Elio mi pare, vieni avanti. Io ho capito Emilio. Non lo copio, se sta parlando non lo copio. Ho tolto lo squelch, tutto, ma non arriva. Dicevo Luca, ha avuto un bel risuccesso quell'apparato lì. Qualcuno l'ha chiamato l'erede del Pluto. Però bisogna stare attenti con i canali. Perché se tu dalla quella manopolina, il clarifier, no, io la tengo sempre dritta, però se vai su un canale, lo muovi, poi ti trovi i canali scombinati, è un po' un macello, un po'... come spiegartelo, porca miseria. A parte che io mi confondo, ne ho di tre tipi, no? Hanno la stessa scheda, più o meno, mi confondo con l'uno e con l'altro, capito? E un po'... a qualcuno può non piacere quel sistema che c'ha di clarifier. Sto sentendo, dai, di là. Sì, al momento sì. Ecco, sì. Stavo parlando, via. Però Antonello, io Antonello, sì. Bombino, Io invece ho l'antennino suo, di quello da tavolo. L'antennino telescopico sarà lungo... quanto sarà? Io penso 60 centimetri, 60-65. Però il problema è che dentro casa senti solo i più forti. Io qua sono al piano rialzato, non ho ricezione, senti solo i più forti. Capito? Marco, se non sbaglio. Sì, mi pare. Va, non mi attivi, non me la ricordo. Ia. C'è Luca. L'altro è, adesso mi ricordo, lavorava a scuola. Gianni, adesso non mi ricordo. Era CB prima, capito? Io sento solo uno ne sento, mi pare. Vabbè, adesso ho messo il volume a zero, dai, se no non capisco niente. Vediamo se Antonio rientra, se non stacco che devo fare qualcosina, mi sto anche pisciando a dirla tutta. Comunque Luca, stavo dicendo prima dei social, delle chat, sì, adesso praticamente ti ho detto puoi parlare dal polo nord al polo sud, su WhatsApp, dove vuoi, anche sul CB Talk, ecco, se vuoi simulare un baracchino, uno usa quello, parla dal polo nord al polo sud, come fosse un baracchino, quindi che senso ha questa roba ormai? Giusto per qualche gonzo che ancora ha un minimo di passione, se no non ha senso la 27. Una volta si faceva perché non esisteva internet, non c'era computer, smartphone, eccetera. Molti non erano appassionati, ricordate, molti non erano appassionati negli anni 70-80, lo usavano come alternativa al telefono, chi per parlare con la ragazza, chi per soccorso, emergenza, così, per passare il tempo, ma non per passione. Ma non ce l'ho più il CB Talk, sai, bugato. Ma io ce l'ho, ma non si usa più, non... l'abbiamo provato tutti per prova, ma... non... oh, però è perfetto, cioè se noi anziché al baracchino entrassimo tutti lì, tu puoi essere al cesso, lo puoi usare anche al gabinetto, capito? Non devi stare qua secco e pesto sul divano per quanto riguarda me, capito? Te lo puoi portare ovunque e che ti butta giù la batteria, perché devi tenere il display acceso, il GPS lo vuole, quindi ti ciuccia un bel di batteria quell'applicazione. Me ne sono accorto dal primo giorno e tutti si lamentavano di questo, che ti buttava giù la batteria in un attimo. Sì, e così è TikTok uguale. E TikTok te la, non te la succhiamo di più. Te la distrugge la batteria. Poi io ho un po' di giramento di stomaco che ho fame. Adesso non so se prendermi le pizze oppure... oppure... non lo so. Io c'ho ancora sul gargarozzo la roba mangiata a pranzo, ancora non ho digerito, mi sono fatto una zuppa di fagioli con in mezzo alla salsiccia, che bella arrostitella fatta a pezzettini e messa dentro, della serie prendetene e abbiatene tutti. Oh, io mi devo assentare, Marco, così devo anche mangiare il cane, dai. Sono stato lì a rompere le scatole. Dopo ne è sparito. Ehi, Luca, fai quello che devi fare. Io anch'io tanto adesso mi organizzo, faccio due cosette qua. E poi nel caso sentiamo quando capita. Adesso ti mando il mio, il colpo d'occhio del mio, dai. Certo, questo non c'ha le serigrafie che non, nel 3009 non sono illuminate, però il frequenziometro fa la sua figura, dai. E io andavo, era d'accordo. Io vabbè, l'ho acceso qua. Se faccio in tempo, bene, se no pazienza, era, vabbè. E quella era una foto fatta l'altro giorno, non è fatta in questo istante, però l'apparato è quello. Va bene, ciao Luca, ciao. Nel caso ritieniti salutato, ciao. Antonello. Io sono qua. Mi sono spostato un attimo, dimmi. Sì, c'era una stazione in baramobile. Stava transitando per Sassari e l'abbiamo tenuto finché l'abbiamo ascoltato, però è sparito in fretta. Come segnale è crollato, dicevo, ancora niente, sto aspettando. Io appena ce l'ho, se me lo mandano te lo mando. Tanto è PDF presumo, dai. Avevo trovato un sito che aveva una foto, ma è illeggibile, cioè è un francobollo, non, è tutta sfumata, non lo leggi. Vabbè, aspettiamo. Qualcuno in un modo o nell'altro lo otterremo, dai. Vabbè, non mi dare fastidio, la pratica funziona bene più che altro, capito? Il discorso è quello, vengono nello speaker in trasmissione, perché arriva segnale 5, capito? Devo cercare lo speaker, più che altro. I voti sono 8, quindi sono salito a 8, quindi sono a posto. Più che altro mi serve lo speaker in trasmissione. Tutto lì, non ho parlato, ma beh, comunque io c'ho pazienza, non ho fretta, devo contare cazzo che c'ho i capiti da un millimetro, quindi in pratica è quello il problema anche, quindi a un certo punto adesso ricambio i cavi domani e qui dovrebbe risultare torna a salire i watt a un certo punto. Tutto lì. Ah, il cavo non è originale, il cavo di alimentazione, peccato. Anche la staffa hai? No, staffa non ne ho. Ma anche senza staffa. Allora, il cavo non è originale, hai capito? Lo strumento sì, la verità, adesso devo mettere il cavo suo, grosso, in modo che sia alimentato bene l'apparecchio, a me sale anche di potenza naturalmente, già lo sai anche tu, quindi se sono 7-8 watt non mi dà picchi negativi naturalmente, mi dà picchi positivi, sai anche tu, no? Porca miseria, mi bruciano anche gli occhi. Sto sempre toccando, mettendo le mani gli occhi, il naso, nelle orecchie. Per carità. Giappa. Vabbè Antone, io adesso stacco. Io spero che rispondano su quel forum e se ce l'abbiamo te lo faccio avere, anche perché ero convinto di trovarlo su internet subito. siccome è un apparato che ci avrà non 40 ma 50 anni, addirittura su un forum l'hanno tolto lo schema, cioè c'era ma dice collegamento inesistente, il link al documento è stato rimosso, se no c'era lo schema lì in formato PDF. Ho capito. Allora, questo apparecchio qua in pratica sarebbe uguale identico a quello che c'aveva Mario Manzi in stazione base. Non ricordi quello stazione base che c'avevo io, che poi c'avevo anche lui. Io poi gli ho regalato, ho detto guarda, ho detto Mario, ho detto la verità, gli ho detto guarda, c'è il transistor, gli ho detto che c'è centrale che è bruciato, no? Allora i pezzi c'erano, vabbè, quello che è, ma non si può fare niente, gli ho detto. Quindi a un certo punto ho detto tienito così com'è, te lo sto regalando, gli ho detto, ma non regalato a me, cioè te lo sto regalando a te. Tutto lì, ma è uguale identico, è preciso, non cambia nulla. Hai capito? Cioè il motivo del 3, il motivo dei 2, frequenzazione base, certo non mi ricordo il nome, la verità, sono tutti uguali, insomma, hai capito? Tutti uguali. Compreso quello che ho di qua a casa, che di quella persona che ti ho detto di stamattina. Sono tutti uguali, hai capito? Questo è quello che ho in casa io, fa in trasmissione e ricezione, solo che trasmette tutto incasinato, cioè in pratica una frequenza solo o due frequenze, quello che è, capito? Il discorso è quello io. È tutto lo oscillatore, il discorso è quello, non è un oscillatore io, cosa mi porta oscillatore mi porta. Sì, Antonè. Vabbè, da vediamo cosa c'esce. Quindi a peccato, quindi cavo non originale d'alimentazione. Io sai che tengo le cose tutte originali. E come dire, quella staffa. Vabbè, tanto tu non lo metti in macchina, però un peccato, staffa e pomelli. Guarda, spesso gli apparati vintage te li danno tutti senza staffa. Se vai a vedere eBay, siti di vendita, la gran parte, per non dire la totalità, degli apparati vintage, roba del genere, senza staffa, sempre. La prima cosa che perdono, non so perché. Un peccato, perché se uno lo vuole mettere in macchina, si attacca, oppure se la costruisce. Non lo so, però è una rottura, dai. Vabbè, cosa ti posso dire? Così fanno, altro non posso dirti, me l'ho dato così, c'è chi lo vede, uguale a quello che ho io, senza staffa, senza nulla, 180 euro, di una tv, a un certo punto, il discorso è quello lì, non mi interessa solamente allinearlo, di Smith e basta, non per altro, in trasmissione. Tutto lì, poi ricezione è a posto, quello è tranquillo, devo trovare solamente l'allineamento eccetera eccetera e basta, se no c'è un demonio e che non me lo ricordo più, hai capito? Non me lo ricordo più, sono passati tanti anni, cazzo, più di 20 anni sono passati, figurati tu, prima mi giocavo come se fosse cazzo, un campo da tennis, questi apparecchi qua, adesso ormai mi sono dedicato di tutto, ho capito, di tutto e di più, però esce, la realtà funziona bene, c'ha 7 watt, quindi a voglia, potenza massima 7 watt, quindi funziona, e se funziona bene, vabbè, non ho problemi per quello. L'unica cosa che mi interessava a casa, regalarmi lo speaker e basta, tutto lì. Abbiamo lo schema elettrico, un utente mi ha gentilmente mandato la foto. Io non ci capisco la mazza, ma tu già lo saprai leggere. Comunque quello originale è l'MS 200. Te lo mando. cazzo, allora sono quel cazzo, è il coso, il clima è della LCMC, così me lo regolo. Che peccato, cazzo, lascialo per la verità essere. Bevinetto, pisellino, me lo son preso, cazzo, perché è bello, cazzo, nuovo, nuovo, non c'è un graffio frontale, cazzo. Antonetti è arrivato, perché qua la, non mi compare la seconda spunta, te l'ho mandato su WhatsApp, va bene, o lo vuoi altrove? No, no, su WhatsApp, aspetta. Aspetta un secondo, è arrivato adesso. Guarda, io sto guardando lo schema ma non aspetta. Vediamo, VR sarà VRV. Oh. Mamma mia, va ingrandito un po', ecco, le dita non ingrandisci. Però è che non riesco a identificare i trimmer qua, aspetta. Mamma mia, ho bisogno degli occhiali. Comunque dai, vedi tu, con calma, fallo con calma. Infatti lo faccio con quello, con calma, non ho fretta. Non ho veramente fretta, quindi sono calmo, tranquillo. Cioè, navigare, come si dice, quando sei in porto con la fretta, cazzo ti porta, cazzo, a mettere in culo da solo, qui da un certo punto, grazie a Dio, sono tranquillo, faccio con calma. Sì, sarebbe stato bello, Antonè, sarebbe stato bello poterlo stampare in formato A3, formato A3, cioè il doppio del foglio protocollo, o anche di più, però io ho la stampante A4 e sta andando anche male. Ok, dai, Antonè, io dovrei staccare, che devo fare delle cose in casa, e quindi lo schema ce l'hai, hai visto, è bastato chiedere, un'anima pia me la mandai, adesso devo andare sul forum, lo devo ringraziare tantissimo, dai. Ok, no, non c'è problema. Aspetta, ti mando un regalo, va? Che sei tu, aspetta. Un secondo. Un pochettino. Allora, come regalo, lui? Ti piace, cazzo, di 10 cazzo P, quello che monta, cazzo, è uguale alle 3.009. Ecco, ringraziato. Bene, bene, hai visto, ogni tanto tornano utili forum e non entravo da un po' lì. E l'hai trovato quello della, dello Schmitter in ricezione? No, ho trovato quello delle LC adesso. Poi piano piano sto girando. SSB. FM. Devo controllare piano piano via, tia. Comunque va bene. Sì, Antonio, dai, sono contento. sono contento, ancora c'è qualcuno che risponde sui forum, anche alla sveglia, quello è un file suo, l'ha postato lui, presumo che fosse uno schema che va lui che ha postato, capito? Va bene, io stacco e faccio delle cose qua in casa, ok Antonì? Puoi farlo con calma, eccetera. Casomai se devi tarare lo Smith alla ricezione, un giorno facciamo una prova. Domani, quando capita, te lo regoli con il K, cioè il Santiago 9, tu basati su quello. Santiago 9, casomai metto anche l'attenuatore d'antenna, metto, come si dice, non l'attenuatore, il riduttore di potenza ZG, metto 100 mW, 200, quello che è, e te lo tari sul 9, pari pari al Kenwood, sul Santiago 9 te lo tari, ecco. Non è quello il problema, basta che attacco l'antenna magnetica alla Kenwood, guardo quanto arriva il segnale e così taro anche di, come si chiama, anche l'apparecchio. Eia, ok, Antonè, per adesso ci sentiamo, dai. Dimmi com'è, che figura fa bianco sull'LMS200, com'è, strano? Bianco, c'è una pagina sua originale, la verità, il bianco te l'ho conservato, compreso anche la, come si chiama. Se tu guardi, è bianco, lo stesso, a me. Aspetta, te lo mando e te lo faccio vedere. Allora, ho messo la parte della lampadina, lampadina con lente, quindi a un certo punto, allora, Ehi Antonio, dai che stacco, dai, se no non riesco a fare roba qui in casa, dai, ci sentiamo domani quando capita, ok? Ciao, buona serata. Va bene, ok, cazzo c'ho gli istrati, cazzo, la camera a fianco. Quegli animali c'hanno kilowatt su kilowatt, se stavano arrivando a 9,15, e ti garantisco che 9,15 qua è molto, molto forte. Cioè, dagli Stati Uniti, renditi conto. E appunto per quello. Oh, che poi è 9,15 su questo smitter, magari Paul Kenwood sarebbero stati 9,20 anche più. Qua con questi smitter i baracchini non è che puoi dare, però è forte, cioè sembrano in locale, sembra gente dentro Sassari, è allucinante. Poi ci sono queste modulazioni sparatissime, larghissime, che prendono 20 kHz, cioè prende l'11, l'11 alfa e il 10. È mezzo rabbizzato. È praticamente come le radio broadcast in HF, in AM. Siamo a quei livelli. Ciao Antonè, buona serata, ciao. Ciao, alla prossima, ciao. Ah, ho visto la foto adesso, bello, e ti dirò che lo Smitter ci sta bene, non è male, e poi se gli hai messo la lampadina, quella originale, che LED, gira, ci sta meglio, è più adeguato all'epoca, dai. Ma ce l'ho messo da parte comunque, il LED originale è compresa la resistenza, quindi a un certo punto, tranquillo, quindi... Ok. comunque me, se tu un giorno te ne dovessi stancare, sai già chi venderlo. Mi contatti e facciamo un affare. Ciao, ciao Antone, chiudo. Appena a posto, metto che te volevo. Mettere a posto, non tu non ti preoccupare. No, ma ci mancherà, Antone, quello l'hai pagato. Credevo che te l'avesse regalato, quello l'hai pagato, è tuo, poi se ti dovessi stancare, io già ne ho parlato, lo sai, no? Antone, c'ho più, già l'hai visto anche tu, c'ho più apparati che denti, c'ho più baracchini che denti. Ehi, già lo so, non ti preoccupare, già lo so. Ehi, allora, corretti esecutivo, ciao, non riprendo, ci sentiamo, ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao, ciao.